Bene, allora do il benvenuto a tutti voi, buonasera, einen schönen guten Abend, benvenuti alla nostra nuova iniziativa, che stiamo iniziando un anno di attività direi con grande soddisfazione. Anche la settimana scorsa abbiamo con la società Dante Alighieri aperto i nostri cicli di incontri e questa sera è la volta di ritornare indietro nella storia, un argomento, un tema, un ambito che ci appassiona molto e che come biblioteca provinciale ci impegna anche da tanti anni. Siamo contenti di avere qui con noi Aaron Ceolan, l'autore di questo libro, Marcello Piacentini a Bolzano. Aaron Ceolan è uno storico dell'arte, è un archivista, uno storico, quindi la conosce la storia in tutte le sue pieghe e ha potuto in questa occasione in particolare dare modo di dimostrare le sue conoscenze, le sue competenze e accompagnarci in un percorso dalle origini ai giorni nostri nella nostra grande, complicata e ricca città di Bolzano. E l'apparato iconografico è molto interessante, ma anche diciamo i paragoni, i confronti, i richiami che fa con altre città, con altre costruzioni che indicano appunto dei riferimenti e dei contatti. Viene accompagnato in questa serata da Adina Guarneri, che è la presidente dell'associazione Storia Regione Geschichte Region, con la quale collaboriamo da anni e siamo contenti di averla qui con noi questa sera. E colgo sempre queste occasioni preziose, questa sala piena di persone interessate alle nostre attività, per segnalarvi anche i prossimi appuntamenti, quello di domani per esempio con un autore, Marco Crestani, che presenterà il libro L'armonia dei tre, icone, radici e identità, domani sempre qui presso la biblioteca provinciale al centro Trevi alle ore 17, mentre la prossima settimana sia di martedì che di mercoledì avremo delle iniziative. Martedì sarà alle 17:30 Spazi colti, giardini, parchi e piante nella storia dell'Occidente, con Fabrizio Fronza, che è l'autore, e Elisa Orlandi, libraria e bibliofila, che parlerà e dialogherà con lui, mentre il giorno successivo ritorna il nostro periodico incontro con il gruppo di lettura Localmente, che si occupa di narrativa locale, e quindi sarà la volta della lettura collettiva, di I quattro inverni di Romina Casagrande. Quindi vi lascio alcune cartoline fuori come promemoria, ringrazio i nostri ospiti di aver aderito all'invito, siamo molto contenti, ricordo che le nostre serate vengono registrate e sono disponibili in formato podcast dal nostro sito, quindi le potete riascoltare, ne abbiamo quasi 800 a disposizione, ormai è diventato un materiale storico anche quello. Benissimo, grazie e buona serata, grazie a voi. Grazie Valeria Trevisan e buonasera a tutte e a tutti, è bellissimo veramente vedere una platea così numerosa, poi soprattutto in una giornata infrasettimanale alle 5:30 dove raggiungere anche delle sedie, vedere della gente seduta in fondo sugli sgabelli un po' come al bar è veramente una bella cosa penso per me ma anche per l'autore. Comunque devo anche ammettere che un po' me lo aspettavo, perché comunque quando parliamo degli anni 20, degli anni 30 a Bolzano ho visto che è un argomento molto sentito, un argomento che suscita molto interesse e ho visto che c'è anche stato un certo interesse da parte dei media, sono uscite diverse interviste anche negli ultimi giorni e insomma congratulazioni perché questo mi sembra già un bel traguardo. Stasera appunto non ho solamente l'onore di presentare questo libro insieme ad Aaron Ceolan, ma ho anche il piacere di rappresentare l'associazione Geschichte und Region, Storia e Regione, che organizza questa serata insieme alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che ringrazio per la collaborazione e anche per gli spazi e la tecnologia necessaria per accompagnare questa presentazione con alcune immagini veramente molto interessanti, molto suggestive, che troviamo poi anche nel volume. Poi d'altronde si deve dire che Aaron lavora al museo, cioè al museo, scusate, all'archivio storico della città di Bolzano e sta praticamente alla fonte di un ricco, ricco patrimonio fotografico che ha potuto in parte utilizzare. Presento brevemente l'autore, appunto Aaron Ceolan, nato nel 1987 a Bolzano, ha studiato beni culturali a Trento e poi storia dell'arte a Siena, dove si è laureato nel 2014 con una tesi su Marcello Piacentini. Ha successivamente lavorato al Museion, ma ha anche frequentato la scuola di archivistica e oggi lavora appunto all'archivio storico di Bolzano. Inoltre dal 2021 è anche membro del comitato paritetico per il centro di documentazione al Monumento alla Vittoria. Vorrei aprire una parentesi perché la cosa interessante è che Aaron e io ci conosciamo almeno di vista da oltre 20 anni, perché siamo entrambi del profondo sud, cioè Egna e Salorno. Non abbiamo mai approfondito questa conoscenza e poi tempo fa, per puro caso, ho scoperto che ci siamo laureati a pochi mesi di distanza nello stesso indirizzo di studi con degli argomenti molto simili. Appunto lui su Marcello Piacentini e io sulla storia della ricezione del Monumento alla Vittoria dopo il 1945. Per fortuna, dico, sono argomenti simili ma non uguali, per questo se mai decidessi di pubblicare la mia tesi, non corriamo il rischio di essere concorrenti, magari ho pensato anche a un qualche cofanetto telato, non lo so, le idee non mancano, potremmo pensare anche a questo. Chiusa questa parentesi, passiamo all'argomento della serata, cioè al libro, lo alzo. Marcello Piacentini a Bolzano, è uscito alcuni mesi fa con Effect Verlag. Ho presentato l'autore, presenterei brevemente l'architetto Piacentini, nato a Roma nel 1881, figlio d'arte perché anche il padre era architetto. Studia a Roma e si è ben presto fatto notare per le sue capacità di urbanista che poi durante il ventennio lo porteranno a essere qualcosa come l'architetto più influente d'Italia, come scrive anche Aaron nel suo libro. Basti pensare al suo progetto per esempio per la città universitaria di Roma oppure il rifacimento del centro storico di Brescia. È anche stato professore e presidente della Facoltà di Architettura a Roma, un incarico che poi ha continuato a svolgere anche dopo il 45. È morto nel 1960 mentre stava ancora lavorando nella Commissione Urbanistica del Campidoglio, insomma una persona con una biografia molto ricca, un curriculum anche molto importante. Insomma, Marcello Piacentini a Bolzano era l'argomento della tua tesi, l'abbiamo già sentita, uscita nel, ce l'hai consegnata nel 2014, sono passati 11 anni, il che non è poco. Ci potresti dire quando e perché hai deciso di pubblicare la tua tesi e soprattutto si tratta dello stesso testo del 2014? Ecco, buonasera innanzitutto a tutte e a tutti, anche da parte mia, e grazie veramente per essere qui così numerosi. Sì, si tratta, allora, la base del libro, ovviamente la mia tesi di laurea magistrale. Credo che sia un po' per tutti il sogno quello di pubblicare la propria tesi, quindi lo era anche per me. Devo però dire la verità, dopo la laurea, ho lavorato appunto a Museion, quindi in ambito un po' diverso, mi sono dedicato all'arte contemporanea e per qualche anno il testo della tesi è rimasta, anche quel sogno è rimasto un po' nel cassetto. Poi da quando lavoro in archivio storico, effettivamente trattando questi argomenti, quindi il ventennio, l'architettura, l'urbanistica, Bolzano, anche quotidianamente al lavoro, quel sogno è un po' riemerso e quindi anche la volontà effettivamente di pubblicare il lavoro. Poi è stato un percorso abbastanza lungo e tortuoso, però poi per fortuna, e ringrazio anche l'editore Effect, ho trovato in loro dei validissimi professionisti che mi hanno veramente seguito in tutto e per tutto. Ed eccoci qua, sono molto felice di aver pubblicato appunto questo libro. Non è ovviamente lo stesso testo della tesi, sono passati poco più di dieci anni, e il testo andava ovviamente riaggiornato, riadattato, andavano aggiunte alcune parti, anche perché soprattutto a Bolzano negli ultimi 10-15 anni è successo parecchio dal punto di vista proprio all'interno di questo contesto storico, architettonico, urbanistico. Penso ad esempio all'apertura dello spazio, del percorso espositivo all'interno del Monumento alla Vittoria, ad esempio, e ovviamente anche l'apertura, la scritta, la citazione di Hannah Arendt sul rilievo di Pifrada in Piazza Tribunale. Quindi questi sono due elementi che andavano aggiunti, andavano trattati, perché sono importanti per capire come la città anche ragiona il giorno d'oggi, quindi come la città lavora anche in una certa ottica per far capire, per spiegare quello che è successo. Quando noi abbiamo parlato prima di questa serata, ma avevi anche detto che è importante parlare della storicizzazione del monumento, anche del rilievo di Pifrader, per capire la portata del lavoro svolto da Piacentini a Bolzano. Potresti specificarlo? Quale portata intendi in questo? Allora, si tratta innanzitutto, sia nel Monumento alla Vittoria che appunto ad esempio il rilievo di Pifrader, di luoghi molto sensibili, molto discussi, che anche molto provocatori, tuttora provocatori, e che rappresentano ovviamente una parte di storia locale. Io credo che la volontà di lavorare su dei progetti di depotenziamento, di contestualizzazione, siano in realtà semplicemente delle volontà di dialogare. E quella è la cosa importante, perché attraverso il dialogo si riesce effettivamente a capire cos'è stata la storia qui a Bolzano e in Alto Adige, cos'è stata la storia architettonica, urbanistica, che ha portato a uno sviluppo di un certo tipo e che ha portato alla realizzazione di certi monumenti, di certi edifici, di certe architetture. Quindi il contestualizzare è importante, quindi è importante capire cosa si voleva dire e anche in che modo noi oggi possiamo affrontarlo. E soltanto attraverso questi lavori, attraverso questi progetti di depotenziamento è effettivamente possibile, credo. Appunto, parlavamo dei monumenti, adesso abbiamo qui un'immagine aerea della cosiddetta zona monumentale in fase di costruzione, parliamo degli anni 20. È Archivio Pedrotti questo, vero? Sì, sì, esatto. Infatti. E il Monumento alla Vittoria è il luogo associato a Piacentini per antonomasia. E non lo dico solo per deformazione professionale, nel tuo volume non lo prendi molto in considerazione, ma mi hai anche detto che questa è stata una tua scelta consapevole. Come mai questa scelta? Esatto, ho volutamente non sono andato a cercare di soffermarmi troppo sul Monumento alla Vittoria, perché il monumento è già stato studiato, è già stato approfondito, sono usciti tantissimi testi di altissimo livello, è stato quindi affrontato da una parte di critica, da una parte di storici, in modo credo veramente esaustivo. Penso ad esempio a due volumi su tutti, ovviamente quello di Zöckler e Ippolito, l'architettura per una Bolzano italiana, e per il caso specifico del Monumento alla Vittoria, quello di Ugo Soranni, appunto il Monumento alla Vittoria di Bolzano, che io credo non si possa dire molto di più di quello che è stato detto in quel testo, che è un po' la Bibbia del monumento, perché effettivamente lo spiega in tutte, lo racconta in tutte le sue fasi di costruzione, in tutte le sue forme. In riferimento proprio al monumento, spesso si parla, no, del stile littorio che è stato sancito da questo edificio, anche perché qui insomma il fascio littorio non è solamente un elemento importante, ma è proprio un elemento portante, nel senso che sono le colonne. Lo stile littorio è comunemente associato ad aggettivi come moderno, monumentale, eroico ed è strettamente legato al nome di Piacentini. Comunque nel tuo libro citi uno storico dell'architettura che è Mario Lupano, che sostiene che Piacentini non ha mai sviluppato un suo stile personale. Tu come la vedi? Esatto, allora mi trovo assolutamente d'accordo con Lupano. Lupano dice anche inoltre che lo stile piacentiniano, perché poi nella seconda metà del Novecento viene chiamato più che stile littorio, che secondo me si appresta molto al Monumento alla Vittoria, però se guardiamo oltre forse stile piacentiniano è più adatto, è uno stile impersonale, e Lupano diceva che è in realtà un codice per produrre delle immagini molto forti, molto riconoscibili e da un effetto cinematografico quasi molto efficace. Stile impersonale perché? Perché Marcello Piacentini è una figura molto interessante perché lavora in quegli anni, negli anni 30 e a partire dal 1925 soprattutto per il regime fascista, e veramente in tutta Italia. Lui siede nella commissione e presiede molto spesso le commissioni per i piani urbanistici, per i piani regolatori di città come Bolzano, Genova, Brescia, Bergamo, parti di Milano, Palermo, Perugia, Torino, quindi in tantissime città italiane, e in tantissime città italiane riporta lo stesso stile, quindi impersonale perché non trova mai un suo ideale vero e proprio. È riconoscibilissimo, quindi se pensate a Torino ad esempio, forse non ce l'avete presente ma non serve, perché basta pensare a Corso Libertà di Bolzano, ma via Roma a Torino che collega Piazza San Carlo con Piazza Carlo Felice è praticamente uguale a Corso della Libertà a Bolzano. Quindi, e questo si susegue in tantissime città italiane. Ed è questo appunto un po' il tema, quindi impersonale e che non trova mai la sua vera strada, la rincorre per tutta la carriera, perché anche il fatto di rincorrere uno stile razionalista che non è prettamente suo fa sì che lui mescoli lo stile classicista, ad esempio, che si ispira all'antica Roma, con quello delle tradizioni rinascimentali, con quello poi effettivamente razionalista, ma non trova mai un'espressione veramente sua. Infatti si parla spesso di architettura razionalista un po' in modo superficiale, no? Tutto quello che è stato fatto in quegli anni è razionalista, ma così non è. Era in corso un dibattito molto sentito anche in quegli anni di quale fosse la giusta, tra virgolette, via da seguire per rappresentare al meglio il zeitgeist di quegli anni. E tu nel libro porti due esempi che sono un po' più anziani dei progetti di Piacentini per Bolzano, che abbiamo qui. Il primo è la Città Nuova di Antonio Sant'Elia, che è un progetto del 1914, e poi hai portato anche la chiesa di Notre-Dame di Auguste Perret a Laurency, che probabilmente non ho pronunciato bene, che è del 1923 il progetto. E Perret, tra l'altro, uno dei pionieri nell'uso del cemento armato, come si vede in questa foto. Appunto, due scuole di pensiero. Per Tommaso Marinetti, Sant'Elia era il massimo dello spirito moderno. Invece Piacentini preferiva Perret, perché secondo lui questa Notre Dame era una costruzione di assoluta spiritualità. Insomma, attorno a cosa avverteva questa discussione in corso in quegli anni? C'è una domanda bipartita. Questa, appunto, attorno a cosa avverteva? E poi Piacentini era razionalista, o cosa pensava lui di questo aggettivo del razionalista? Ecco, allora rispondo subito a questa. A mio avviso no, Piacentini non può essere considerato un architetto razionalista. Innanzitutto lui è di una generazione più vecchia rispetto agli architetti razionalisti, che sono altri, che sono Gaetano, adesso penso a Minucci, ad esempio, ad Alberto Libera, che nel 1928 a Roma inaugurano la prima esposizione italiana di architettura razionalista. Lui nel 28, Piacentini nel 28, ha già 48 anni ed ha già una carriera ben avviata, è già un architetto affermato a livello nazionale, e osserva questo movimento che nasce effettivamente in Italia ed è ben consapevole fin da subito che questo poi sarà un movimento che conquisterà ovviamente tutta l'Europa e sarà il movimento poi predominante nell'architettura moderna. Però la critica l'architettura razionalista perché dice che è un'architettura dall'aspetto anche dall'ideale troppo semplice, perché è esteticamente molto bella, però si ferma all'estetica. Invece, secondo Piacentini, l'importanza nell'architettura vera è quella della spiritualità, quindi deve essere un'architettura sentita, con un certo tipo di spirito, che si innesca all'interno di un contesto urbano che ha la sua storia, ha la sua tradizione e quindi deve dialogare e rapportarsi con quello che c'è intorno. In questo caso poi Piacentini farà proprio il contrario di quello che lui dice, a Bolzano soprattutto, perché a Bolzano andrà ad operare senza tenere conto minimamente di ciò che trova, quindi senza badare alla storia e alla tradizione. Però rispetto allo stile razionalista lui è molto chiaro e dice manca di spiritualità. Infatti in questo caso la chiesa di Perret a Le Rancy, in cemento armato, che non mostra dei tratti così distintivi per il razionalismo, lui l'ammira molto e dice che, guardate, l'uso anche del cemento armato, ad esempio col cemento armato si può fare qualsiasi cosa, e quindi lui l'adora e quindi farà o cercherà di fare lo stesso anche in Italia, a Roma ad esempio, però anche a Bolzano. Ecco, quindi no, non lo definirei un architetto razionalista, ma un architetto che ha cercato di salire sul treno dei vincitori per essere considerato. Bruno Zevi, addirittura un grande critico dell'architettura, dice molto chiaramente che Piacentini muore nel 1925, quindi nel 25 è già talmente affermato, poi lui sarà il braccio destro praticamente di Mussolini, lavorerà per il regime fascista, però da quel momento in poi lui smette di ricercare, smette di avere una propria ricerca architettonica e semplicemente, mosso da questa sua grande ambizione, vuole avere potere e lo avrà, vuole essere influente e lo sarà, però lasciando da parte la ricerca, diciamo, architettonica vera e propria. Riguardo al dibattito? Riguardo al dibattito è più complesso. In quegli anni, senz'altro, Piacentini si pone in un certo modo. Per lui è importante il classicismo italiano, e poi lo si vedrà anche a Bolzano, quindi il riferimento a Roma antica, ma non solo a Roma antica, ma anche alla tradizione rinascimentale. Il Palladio, ad esempio, il Palladio era per lui l'architetto principale per tutta la storia architettonica italiana. Però si contraddice di nuovo, perché allo stesso modo segue molto gli architetti moderni, soprattutto tedeschi, come Pölzig, ad esempio, Böhm e altri tedeschi, che operano in una maniera molto molto moderna, quasi agli opposti di quello che è lo spirito razionalista, però anche agli opposti di quello che è lo spirito classicista. E quindi in quel dibattito lui entra senz'altro a gamba tesa, ma viene anche fortemente criticato da Lupano, da Zevi e da tanti altri architetti e storici dell'architettura, anche poi nel dopoguerra, nella seconda metà del del secolo scorso. Hai detto che a Bolzano non ha preso in considerazione l'ambiente, però ha preso molto in considerazione il paesaggio, mi sembra, perché comunque stando esatto. in Piazza Vittoria esatto. si nota che quello, è molto calibrato. Esatto, quello forse è l'unico elemento di considerazione verso la storia, verso l'ambiente in cui va a operare. In Piazza Vittoria naturalmente l'elemento centrale è il monumento. Intorno al monumento lui ha disegnato il piano regolatore e tutti gli edifici che venivano a crearsi dovevano sottostare in qualche modo all'importanza del monumento, quindi non potevano superare il monumento in altezza e anche, questo è un aspetto molto interessante, tutti gli edifici intorno alla piazza, poi verso Gries, ma anche verso il Corpo d'Armata ad esempio, e verso l'altro lato, verso via Venezia, dovevano tenere in considerazione il paesaggio retrostante, quindi la vista verso le montagne, che doveva essere privilegiato. Stando in piedi in Piazza Vittoria andava vista la bellezza del paesaggio altoatesino, quello per lui era importante, quindi le dimensioni degli edifici dovevano essere tali da non impedire la visione, ecco, delle montagne, dei paesaggi verdi, eccetera, eccetera. Questo forse è l'unico elemento di rispetto verso quello che ha trovato a Bolzano. E visto adesso parliamo del suo lavoro a Bolzano, c'è un edificio che a tuo avviso, adesso appunto non parlare del monumento, rappresenta Piacentini a Bolzano per te? Sì, assolutamente, qua andrei anche avanti, è qui, senz'altro questo, quindi il palazzo degli alti comandi del Corpo d'Armata in piazza 4 novembre, questo esprime, diciamo, in modo migliore il Piacentini architetto. Questo venne realizzato a metà degli anni 30, è una realizzazione che ha dei precisi richiami verso altre due realizzazioni italiane che mostro brevemente, che sono una volta questa, che è la Casa Madre dei Mutilati a Roma, che si trova in una posizione molto strategica sul lungo Tevere tra Castel Sant'Angelo e il Palazzo di Giustizia. Rispetto a Castel Sant'Angelo e il Palazzo di Giustizia è un'architettura di dimensioni ridotte, perché i due edifici ai lati sono veramente imponenti, però questa la realizza Piacentini comunque sempre all'inizio degli anni 30, e lui la prende come riferimento anche, e si vedono un po' di somiglianze, per il Corpo d'Armata di Bolzano. E poi ce n'è un'altra che è un palazzo rinascimentale, Palazzo Ducale ad Urbino, si vedono i due torrioni che in qualche modo inquadrano la facciata, che Piacentini ripropone anche a Bolzano, in modalità, in versione però più moderna naturalmente. Ed è qua il suo mescolare gli stili, perché qua si vede un po' di influenza appunto romana, perché a Roma, con questa casa madre dei mutilati, lui fa riferimento a una costruzione militare, perché Castel Sant'Angelo è effettivamente una fortezza e lui ne tiene conto, quindi lo ripropone in qualche modo come una fortezza, e allo stesso modo lo fa poi a Bolzano. Però questi due torrioni laterali e anche il moto verso i due lati sono anche riprese appunto da un'architettura rinascimentale, che può essere questa di Palazzo Ducale ad Urbino. Questo è secondo me l'edificio simbolo per Piacentini a Bolzano. Va detto che costruisce molto poco nella nostra città. Lui disegna il piano regolatore a metà degli anni 30, ma realizza soltanto il Monumento alla Vittoria a metà degli anni 20 e questo palazzo a metà degli anni 30. In realtà realizzerà poi anche la chiesa di San Giuseppe ai Piani, però nel 1958, quindi in un'altra epoca, diciamo, e con altri committenti. E anche lì si vedono ovviamente le influenze razionaliste, però diciamo quello è un altro capitolo. ma questo è senz'altro l'edificio principale per quel che riguarda Piacentini a Bolzano. Io sono sempre passata davanti al Corpo d'Armata quando andavo a scuola, mi sono sempre chiesta gli interni, come sono? Gli interni sono molto molto belli e devo dire ho avuto la fortuna di poterli ammirare. Poi all'interno del libro ci sono delle fotografie degli interni e qua devo ringraziare anche ufficialmente a questo punto il tenente colonnello Minisale, che mi ha dato l'opportunità, che si è sviluppato un po' un rapporto anche di amicizia, perché mi ha dato l'opportunità di entrare all'interno del Corpo d'Armata, di vedere non solo gli uffici del maggiore, ad esempio, del comandante, ma anche tutti i giroscale, che sembra una banalità, ma i giroscale sono bellissimi all'interno di questo edificio. E poi l'appartamento del comandante. L'appartamento del comandante è una chicca architettonica, perché ho avuto la possibilità di vederlo, ha all'interno un mosaico di Cadorin, Guido Cadorin, che è lo stesso artista che ha eseguito i due affreschi nella cripta del Monumento alla Vittoria, ed è un appartamento veramente di alta qualità, anche per quel che riguarda l'arredamento, i mobili di design dell'epoca, anche tuttora conservati. Ma anche il palazzo stesso, che adesso negli ultimi anni si è anche aperto al pubblico, perché hanno organizzato delle giornate di porte aperte, hanno dato la possibilità di vedere gli arredi, le rifiniture, eccetera, eccetera. Ed è un palazzo veramente molto, molto bello, anche dal punto di vista appunto degli interni. Lei ha detto te prima, il Corpo d'Armato e il Monumento alla Vittoria sono gli unici due edifici effettivamente progettati e costruiti da Piacentini a Bolzano, che appunto non è molto, considerando anche che in quegli anni lì è nato un intero quartiere, appunto un quartiere monumentale, con anche architetti, per esempio Guido Pellizzari, Ettore Sozzas, che hanno progettato, costruito qualcosa. Nonostante ciò, troviamo lo zampino di Piacentini un po' ovunque in questa zona nuova, in questa Bolzano italiana, come appunto la chiamano nel libro Zirkler e Ippolito. Dove sta questo zampino? Che ruolo ha svolto Piacentini? Allora, questo zampino, secondo me, si vede molto bene qua, che è il piano regolatore di Bolzano del 1935. Lui lo sviluppa dopo anni travagliati, diciamo, perché il comune lancia il bando per il piano regolatore nel 29, poi questo concorso viene effettivamente vinto da tre studi architettonici, che sono quelli di Libera e Pollini, di Muzio e di Sozzas. Questi tre progetti vincitori però non vengono considerati e Piacentini, che presiede la commissione, decide no, qua faccio io. Qua decido io, prendo gli elementi più importanti o migliori dei progetti vincitori, ma li adatto, li adeguo al mio piano. E così faceva non solo a Bolzano ma anche in altre città, poi va detto. E quindi lui disegna effettivamente tutta la parte oltre il Talvera, verso Gries e verso la nuova zona industriale, tutta quella zona di italianizzazione, quindi l'espansione in qualche modo forzata, perché voluta dal regime, perché Bolzano all'inizio degli anni 20 è una città di 34.000 abitanti e nel giro di un decennio, poco più, doveva diventare, secondo il regime, una città di 100.000 abitanti italiani. Quindi andavano non solo realizzate le case, le infrastrutture, eccetera, ma anche trasformato effettivamente la popolazione locale da tedesca in italiana, ma quello poi è un altro discorso. Qua si vede il suo zampino, nel senso che lui lo disegna, lui invita i principali architetti a livello nazionale e a livello locale, perché va detto che lavorano poi appunto anche, ad esempio, Louis Plattner, che è uno dei maggiori architetti altoatesini dell'epoca, e loro lavorano agli edifici, Paolo Rossi De Paoli negli edifici subito intorno a piazza, al monumento, appunto, che sono gli edifici che si vedono, che erano praticamente gli edifici delle assicurazioni, dell'INA, dell'INPS, eccetera, che sono quelli intorno al monumento, intorno a Piazza della Vittoria. Questo è il cosiddetto Foro della Vittoria, ovviamente, e qui si vede lo zampino suo, perché quello stile piacentiniano è esattamente questo, questo che si ritrova a Bolzano, ma si ritrova a Brescia, a Bergamo, a Torino, a Roma, ovviamente, a Milano, eccetera, eccetera. Quindi lui li invita, e lui invita veramente i migliori. Questo lo si vede anche poi al Monumento alla Vittoria, dove dal punto di vista artistico invita gli artisti principali di quell'epoca. Adolfo Wildt, ad esempio, che esegue le tre armi sotto all'arco, che a mio avviso, da un punto di vista artistico e estetico, sono di una bellezza pazzesca. Ecco, questa appunto una foto dell'epoca del palazzo di fondo, quindi questi viali molto ampi, questa scenografia quasi, questo effetto cinematografico lo si vede molto bene qua. Questa è Piazza Mazzini con Palazzo Rossi alla vostra sinistra. Questa potrebbe essere un fermo immagine di un film, di una pellicola cinematografica di forte effetto, e questo è quello che voleva, perché il regime aveva capito, grazie a Piacentini e grazie anche, va detto, al ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele a metà degli anni 20, che l'architettura è un elemento di propaganda molto molto forte, molto più forte di un volantino o di un testo scritto, perché chi ha voglia di leggersi un libro scritto, quando posso camminare in una città, alzare gli occhi e vedere quello che è intorno a me. Quello è di un'efficacia pazzesca, il regime se ne è reso conto e ha fatto suo questo stile razionalista che poi troviamo appunto in questi edifici. Poi colgo l'occasione, una curiosità. Questo era l'edificio dell'INPS, che è quasi impossibile da pronunciare. La prossima volta che passate di lì, sopra l'ex libreria Cappelli ci sono ancora le iniziali, e hanno tolto solamente la F, per questo si capisce benissimo cosa c'era scritto una volta, però hanno tolto solamente la F. Ecco. Chiusa anche questa parentesi. Allora, bellissime queste foto, poi le ho già viste tantissime volte, ma ogni volta che le vedo le trovo una cosa incredibile, anche appunto pensare quasi a una Route 66 che collega Ponte Talvera a Gries. Hai portato un'altra foto, quella che viene dopo, una foto aerea che trovo interessantissima, anche perché non ho mai visto questa parte della città dall'alto, e soprattutto pensare di vedere Piazza Tribunale piena di macchine è anche una cosa anacronistica. Questa foto è la triade del potere che hai portato, appunto questo triangolo Piazza Tribunale, Corso Italia, con la Chiesa di Cristo Re. Allora era Piazza Arnaldo Mussolini e via Giulio, Corso Giulio Cesare, mi sembra, vero? Via Giulio Cesare. Via Giulio Cesare, ecco. Questa era una metafora del potere dello Stato, una cosa che passando oggi probabilmente è quasi impossibile o nessuno nota, però effettivamente era ideata in questo modo. Esatto, era ideata in questo modo, del potere dello Stato e il potere della Chiesa anche in qualche modo. Potere dello Stato perché vediamo appunto, innanzitutto questa doveva essere una nuova porta d'ingresso alla città, quindi chi veniva da sud, chi veniva dai quartieri residenziali poveri, diciamo, che erano, chi veniva dalla zona industriale, dal Littorio, dal Dux, dalle semirurali praticamente, doveva per forza di cose passare per questa porta ideologica nuova alla città, e si trovava appunto di fronte questi edifici monumentali che erano mi alzo un attimo. Uno era l'ex Casa Littoria, questo, e poi il Palazzo di Giustizia, ovviamente, il Tribunale di fronte. E poco più avanti, a destra, invece, la Chiesa di Cristo Re. Voi dovete immaginarvi però questa immagine con solo queste tre costruzioni e tutto intorno campagna, perché effettivamente negli anni 30, negli anni 40 non c'erano tutte le case costruite che ci sono ora, ovviamente, e bisogna in qualche modo cercare di capire l'impatto visivo, la forza di questa monumentalità nell'entrare in città da quel punto e trovarsi di fronte la Casa Littoria, quindi la sede del partito fascista, e il tribunale di fronte, che sorgevano nel nulla, praticamente nel deserto delle vigne o dei campi di Gries. E questa, il regime puntava a questa forza ideologica qua. Noi siamo i più potenti e lo dimostriamo attraverso le nostre architetture. In questo caso, anche in questo caso, Piacentini chiama all'opera diversi architetti, anche locali, che operano. Allora, il tribunale appunto viene realizzato da Paolo Rossi De Paoli, che è lo stesso che realizza gli edifici in Piazza della Vittoria insieme a Michele Busirivici. La Casa Littoria, quindi l'ex Casa del Fascio, di Guido Pellizzari, Franco Rossi e Luis Plattner, appunto, e la Chiesa di Cristo Re è di nuovo di Guido Pellizzari e Enrico Bignoli. Quindi non è sempre un architetto solo, ma è un insieme di architetti, la maggior parte delle volte i migliori che sono a disposizione, che vengono chiamati in causa. A mio avviso è molto interessante l'azione, il progetto per quella che allora era Piazza Arnaldo Mussolini, in onore del fratello di Benito Mussolini, che era scomparso prematuramente un paio di anni all'inizio degli anni 20, se non sbaglio. E lì c'è un fronte convoco e un fronte convesso che si specchiano e si guardano tra il tribunale e la Casa Littoria, e crea uno spazio quasi a sé, vuoto ma molto molto forte. Allora quest'idea di piazza come spazio vuoto all'interno di due edifici in Piacentini è molto importante, e lui qua si rifà a quella che è la tradizione rinascimentale italiana. Pensiamo alle tavole cosiddette la città ideale, alla Pinacoteca di Urbino, ad esempio, dove degli artisti, in questo caso un artista anonimo, crea la cosiddetta città ideale, dove c'è in quel caso una fontana centrale e tutto intorno una scenografia quasi di edifici che chiudono la piazza. Ma la cosa importante è proprio lo spazio che si crea all'interno e che diventa quasi uno spazio positivo, un edificio a sua volta. E in questo caso lo si vede bene in Piazza Tribunale. Poi di fronte, cioè un attimo prima, ovviamente, la Chiesa di Cristo Re, che quindi il potere della Chiesa vicino a quello dello Stato. Cristo Re, che fa resto ai rilievi di Ignaz Gablone sulla facciata. Esatto. Artista altoatesino. Allora, tu hai citato adesso tantissimi architetti anche noti a livello nazionale, no? Viene da chiedersi come mai tutte queste persone fossero attive a Bolzano, insomma, una città così piccola e periferica, che non è Roma, non è Milano, non è Torino. Allora, questa è una bella domanda. E Bolzano era sicuramente un'occasione unica, sia per gli architetti che per gli artisti, perché Bolzano era la città nuova, la città conquistata durante la guerra, la città al confine, la città che doveva essere trasformata, quasi creata da zero. E questa è un'occasione per un architetto, un'occasione d'oro, perché gli consente di lavorare quasi liberamente e di creare, di costruire una nuova città. Piacentini questo lo sa molto bene, lui è effettivamente l'architetto più potente della prima metà del Novecento e viene ben volentieri a Bolzano a lavorare per la città, per la nuova città italiana di Bolzano. A Bolzano si cerca di dare forma a una legittimazione un po' della sovranità italiana, guardando attraverso l'uso, ad esempio, di linguaggi ideali cari al regime, ovviamente, perché lo si deve fare. Però Bolzano rappresenta appunto un unicum all'interno di tutto il contesto nazionale, perché nelle altre città ovviamente si andava a lavorare in una città che già esisteva, tutta la Bolzano nuova italiana non esisteva, quindi potevano creare da zero. E questo secondo me è un aspetto molto, molto importante da sottolineare. Quindi, come detto prima, ci sono artisti importanti del resto d'Italia, ma anche altoatesini. Ora, direi una mia curiosità personale, riesci tu a guardare a Piacentini, insomma, ovviamente non si riesce mai a guardare al di fuori del contesto storico a un personaggio, però insomma scollegarlo anche dall'ideologia del suo tempo e apprezzare forse la qualità di quello che ha fatto? O c'è comunque sempre questa parte ideologica che resta insomma presente? Allora, la parte ideologica ovviamente c'è ed è giusto anche che ci sia, perché lui opera in quel modo perché vive in quel tempo. Quindi lui opera così perché è in qualche modo gli è stato commissionato in quel modo. Lui sa esattamente cosa deve fare e cosa il regime vuole. Certo, questo tipo di architettura va analizzata con un certo tipo di distanza, e lo si riesce a fare andando effettivamente a studiarla in modo più approfondito. È un'architettura che piace? Sì, a me piace molto, devo dire. Si può pensare ad altri esempi anche all'interno della città di Bolzano. Per esempio, un edificio che pochi conoscono è la casa della dell'Opera Nazionale Balilla, che praticamente si trovava dove oggi c'è il centro Giovani Vintola, che si trova qualche immagine su internet, e noi abbiamo in archivio ovviamente la pratica edilizia, ed è un edificio molto molto bello, cioè esteticamente parlando molto bello, molto asciutto, lineare, però molto pulito dalle linee geometriche, qual era appunto l'architettura razionalista dell'epoca. Quindi sì, io mi sono anche un po' appassionato a questo tipo di architettura perché effettivamente mi piace. E poi la si trova non solo in Italia, ma anche oltre il Brennero, ovviamente. Si pensi ad esempio alla forse l'Expo più famosa, o quella di cui ci si ricorda in modo maggiore, è senz'altro l'Expo del 1937 a Parigi, quando davanti alla Torre Eiffel si guardano il padiglione della Germania nazista e il padiglione dell'Unione Sovietica comunista, e sono due edifici monumentali, entrambi razionalisti, perché quello era lo stile sia da un lato che dall'altro. L'unica differenza è che in cima a quello tedesco c'era l'aquila con la croce uncinata, ovviamente, e in cima a quello russo sovietico c'era una contadina e un operaio che tengono in mano falce e martello. Però gli edifici di sotto sono praticamente molto molto simili, e non lontano c'era appunto il padiglione italiano progettato da Piacentini stesso. Quindi un Expo molto interessante, e quindi anche architetti tedeschi, ad esempio Adolf Loos, che si ritrova anche in parecchi edifici a Vienna, sono molto molto interessanti e stilisticamente molto belli da vedere. E duraturi soprattutto. E duraturi, assolutamente. Una qualità, va anche detto una cosa, che gli edifici intorno, allora, di quel periodo, ad esempio, intorno al Monumento alla Vittoria, sono di una qualità pazzesca. Va detto che specialmente negli anni 30 gli architetti avevano a disposizione un fondo economico vastissimo. Per il bimillenario Augusteo, quindi i festeggiamenti per i 2000 anni della nascita dell'imperatore Augusto, Mussolini e il regime fascista hanno messo a disposizione in praticamente tutte le città italiane una delle grandissime somme di denaro proprio per realizzare degli edifici di un livello altissimo e importantissimo. E questo anche perché tutti questi edifici vengono realizzati in 2, al massimo 3 anni. Il Corpo d'Armato viene realizzato in 2 anni e 1 mese. Il Monumento alla Vittoria, Piacentini lo costruisce in 2 anni appena. Cioè il 12 luglio del 26 c'è la posa della prima pietra e il 12 luglio del 28 viene inaugurato. Quindi manodopera, molta, tantissima manodopera, materiali di primissima qualità e i migliori architetti ovviamente. Bene, grazie, grazie a Aaron Ceulan. Vorrei aprire al pubblico adesso. C'è qualcuno che ha un microfono da portare? No? Lo porto io. Ah, okay. Grazie, molto bene. Tutto. Allora, 66 anni fa, a settembre, io avevo 16 anni, era una giornata bella, ero seduto davanti all'architetto Pellizzari. Non ho aspettato l'università per imparare qualcosa. Mi piaceva incredibilmente le volumetrie che poi ritroviamo anche in Austria, ovunque, dell'epoca degli anni 30, la potenza proprio architettonica. E quindi volevo imparare qualcosa. E Pellizzari iniziò così. Non vi faccio tutta la storia, ma solo per dire. Ha detto che Marcello Piacentini era l'ungekrönte König dell'architettura italiana secondo le riviste germaniche dell'epoca. E questo lo dicevano prima che andasse al potere il nazismo, attenzione. E quindi Piacentini è una potenza di organizzatore più che di... No, ma anche di architetto. Se per architetto intendiamo colui che taglia la pietra e decide il volume e la grandezza di un edificio, di una casa, di un coso, Piacentini è un grandissimo architetto. Se poi abbiamo altre valutazioni possiamo farne altre. Ecco. E mi ha raccontato un episodio, e finisco qui. Se voi guardate il libro, c'è la piantina, potete constatare che, ecco, potete constatare, tutti, anche se l'orientamento non è a nord, che c'è il Monumento alla Vittoria, si riconosce dal fiume e lo stadio, e poi Piazza Mazzini, e voi vedete una serpentina con la famosa piazza che è stata citata, quel tribunale e la Casa del Fascio. Posso dare testimonianza per parole dirette dopo, è così. Pellizzari mi racconta che questo piano venne presentato a Mussolini. Mussolini osservò un fatto, che al termine di questo viale doppio che doveva uscire da Piazza Mazzini e che oggi è solo manco, esisteva la chiesa di Cristo Re. Aveva davanti il plastico con la chiesa di Cristo Re. E perché? Perché bisognava omaggiare, essendo uomo di potere, anche la monarchia, di cui non si parla mai. Bene. Allora Mussolini prese la chiesa di Cristo Re, la Maquette, la prese e la spostò di lato dove oggi è. Perché, essendo di concezione statale e laica, Piacentini, essendo invece di origine spiritualista romana e quindi papalino, aveva inteso mettere la chiesa al fondo di questo viale che, se guardate bene, si oppone a tutta la città nuova. Non si poteva penetrare in quel viale, bisognava andare a Gries e tornare indietro. Invece Mussolini spostò questa cosa, aprì la strada, la rese dritta e la fece precipitare in un posto che adesso non si vede bene qui e che è quel quadratino che si chiama oggi Piazza Adriano. Va bene? Da cui parte un bivio, e lui a Piacentini lavorava a bivi, no? Stretti, come a Roma, e non solo fece questo, ma aprì quindi alle parate la strada, trasformò quello che era una città aristocratica italiana in una città populista moderna, e questa è la lezione che mi diede, concentrò tutto il traffico su Piazza Adriano, e Piacentini, che era un architetto di scuola, Pellizzari, che era di scuola piacentiniana e di scuola vecchia scuola, disse: non si può, riducendo l'area e aumentando lo sforzo sull'area, le situazioni, riducendola appunto, le situazioni diventano un dramma, e mi ha insegnato la prima regola della circolazione che non hanno capito nessuno ancora a Bolzano. Grazie. Ci sono altre domande? Tutti completamente soddisfatti, felici e contenti? No? Allora colgo l'occasione anch'io per ringraziare innanzitutto te Adina, grazie mille, e ovviamente la biblioteca Claudia Augusta e il Centro Trevi, che sono stati molto professionali e disponibili, quindi grazie mille. E ovviamente a tutti voi per essere venuti, grazie mille.